Parleremo, sarà una brevissima conclusione riguardo a Sant'Agostino, un paio di cose che si possono ancora precisare, sottolineare, e poi voleremo fino a San Tommaso, niente meno, fino a San Tommaso. Ecco, una precisazione sulla propagazione del peccato originale secondo Agostino. Agostino vede che necessariamente, per quello che lui legge nella scrittura, per la vita della Chiesa che battezza tutti, anche i bambini, per il fatto della salvezza di Cristo che tocca tutti, quindi è necessaria a tutti, lui dice il peccato originale da Adamo viene contagiato, per via di, c'è una vera propagazione, non una semplice imitazione, un cattivo esempio di Adamo, una propagazione della sua colpa anche in noi. E questa propagazione per Agostino avviene per il fatto che ogni essere umano viene generato da un altro essere umano. La generazione però per Agostino di per sé non è un male, era prevista da Dio anche in assenza del peccato originale. C'è un bel passo del De Civitate Dei in cui Sant'Agostino dice proprio questo. Vabbè, adesso dovrei ritrovarlo, ma comunque anzi ve lo trovo perché è molto chiaro. Dice De Civitate Dei, capitolo 14: noi non dubitiamo affatto che il proliferare, l'aumentare di numero e il riempire la terra secondo la benedizione di Dio è un dono del matrimonio che Dio istituì dal principio, prima del peccato dell'uomo e della donna, prima del peccato dell'uomo, creando il maschio e la femmina. La diversità del sesso si manifesta anche nel fisico. All'atto della creazione di Dio seguì la sua benedizione. Infatti la scrittura, dopo le parole di creò maschio e femmina, soggiunge immediatamente e Dio li benedisse, dicendo proliferate e aumentate di numero e riempite la terra. E quindi lui dice è un'assurdità negare che il maschio e la femmina sono stati creati affinché, generando i figli, incrementino la specie, aumentino di numero e riempiano la terra. È stabilito dunque che maschio e femmina sono stati ordinati in principio come al presente. Si riconoscono due individui di sesso diverso e che si considerano uno solo per il fatto che si uniscono, si accoppiano, dice proprio, e quindi generano i figli. Questo Agostino, tra l'altro, è un grande sostenitore della bontà del matrimonio, della santità del matrimonio, quindi a differenza di alcuni suoi successori, alcuni suoi discepoli, che accentueranno invece di più il senso negativo della concupiscenza nell'atto coniugale, ecco, per Agostino la generazione in sé è buona, prevista da Dio. Certo, la concupiscenza, in quella parte di concupiscenza che si inserisce anche nell'atto, della generazione, può essere un male, e al di fuori del matrimonio rende male l'atto l'atto coniugale. Nel matrimonio cessa invece di essere disordinata. Quindi questo, ecco, lo dico perché poi a volte, siccome alcuni suoi discepoli hanno sottolineato di più la negatività della concupiscenza nell'atto coniugale, quindi come se Agostino vedesse male l'atto coniugale in sé, ecco, invece in realtà non è così. È anche vero che Agostino ha scritto moltissimo, quindi a seconda anche dei contesti a volte dice delle cose accentuando di più una certa cosa o un'altra, però fondamentalmente si può dire questo, che per lui la generazione in sé non ha niente di male. Ecco, l'altra cosa è importante da dire, che per Agostino resta praticamente senza soluzione il problema dell'origine dell'anima umana, almeno così, poi non so se magari Giorgio sa di più su questo tema, però lui da un lato come filosofo si sente più portato ad affermare una visione creazionista, cioè l'anima creata immediatamente da Dio in ogni persona, che viene immediatamente da Dio. Però così non riusciva a capire, a spiegare bene come mai l'anima, se viene creata da Dio immediatamente, sia macchiata dalla colpa originale. Per questo tende un po' anche dal lato del cosiddetto traducionismo, cioè a pensare che l'anima può essere, diciamo, generata di padre in figlio. L'anima del padre in parte si trasmette al figlio, e quindi se è macchiata l'anima del padre, è necessariamente macchiata anche l'anima del figlio. E lui fino anche 426 ancora dice di non sapere qual è l'origine dell'anima. Proprio per questo motivo alcuni dei pelagiani, un giovane vescovo, Giuliano, con cui lui ha una disputa molto forte, Giuliano di Eclane, l'ho trovato scritto in tutti i modi, non so come si... comunque forse Eclane, che proprio su questo lo pungola, sul fatto dell'origine dell'anima. E Agostino, veramente mostrando anche la sua grandissima rettitudine, dice: guarda, io perché ti rifai a questo mistero così oscuro dell'anima, di cui in fondo io non so dire da dove viene, però se tu con questo, parlando dell'origine dell'anima, vuoi contestare invece il dato di fede che la Chiesa possiede sul peccato originale, io ti dico che sull'anima non lo so, però affermo il peccato originale perché lo affermo insieme alla Chiesa. Questo effettivamente è molto bello, no? Ecco, vorrei far notare che ancora oggi il Catechismo della Chiesa Cattolica, che adesso non l'ho preso, ma comunque mi sembra che sia il numero 404, quando parla del come noi diciamo siamo solidali in Adamo, siamo uno in Adamo, quindi siamo anche noi, abbiamo il peccato originale in noi, lo definisce un mistero che non si riesce a chiarire pienamente. Quindi Agostino, come così sua idea, aveva quella che nella generazione in qualche modo il peccato originale contagia sia l'anima che il corpo, anche se non riesce a capire bene esattamente fino in fondo come questo avvenga. Però ecco, non è un problema facile da risolvere. Bene, con questo chiudiamo un po' Agostino. Poi c'è tutta la tradizione agostiniana, cioè Agostino influisce su questioni riguardo al peccato alla grazia, al peccato originale, praticamente fino alle grandi somme del XIII secolo, fino ai grandi teologi come San Tommaso, e poi anche fino al Concilio di Trento, che fondamentalmente afferma dogmaticamente la dottrina di Agostino, grosso modo, poi lo vedremo. E alcuni nomi importanti di quelli che così riprendono molto da Agostino: Fulgenzio di Ruspe, Cesario di Arles, Gregorio Magno, Isidoro di Siviglia e poi altri. E in alcuni degli esponenti della tradizione agostiniana ci sono appunto alcune accentuazioni anche un po' in debito, alcune deviazioni rispetto ad Agostino. Una ve l'accennavo prima, il fatto per esempio di attribuire la propagazione del peccato originale da un individuo all'altro a un disordine intrinseco alla generazione umana, alla generazione diciamo carnale, un disordine che starebbe nella concupiscenza che renderebbe in sé una specie di male necessario, però l'atto della generazione, quindi come se fosse un male che va tollerato perché per avere un bene che è la generazione umana, però, però intrinsecamente questo atto sarebbe disordinato e quindi sarebbe un po' il canale della propagazione del peccato originale. Questo Agostino non lo ha detto, perlomeno non... proprio per questo, perché è legato alla, alla diciamo alla, a un disordine intrinseco alla, all'atto generativo, il peccato originale era, dunque si diceva che in Cristo non c'è, perché lui è nato con un concepimento virginale, in lui non è nato da un atto di generazione, e in Maria invece non si vedeva come potesse essere preservata e immune dal peccato originale. E lo stesso San Bernardo, che sappiamo grande, insomma, grande cantore di Maria e teologo che ha parlato tanto di lei, dice, è costretto a dire che là dove vi è stata concupiscenza, cioè nell'atto della generazione, vi è stata necessariamente trasmissione del peccato. Quindi, insomma, cioè ecco, questa visione era una visione che si è stato difficile poi da superare. E un'altra un po' una sottile deviazione un po' dal pensiero genuino di Agostino è stata la tendenza dei suoi successori a identificare il peccato originale con la concupiscenza. Invece sappiamo che Agostino distingueva tra la colpa, che è poi la conseguenza più grande del peccato originale in noi, e la concupiscenza. La concupiscenza è pure conseguenza in noi del peccato originale, ma in se stessa non è un peccato, non è peccato. Può spingere, inclinare al peccato, ma non è in se stessa peccato, tanto che rimane anche dopo il battesimo, che invece lava via la colpa. Ecco, dopo Agostino c'è una certa tendenza invece a vedere, a dire, per Agostino il peccato originale è la concupiscenza. No, Agostino li distingueva. Il concilio di Orange nel 529 dirà giustamente che lo stato di colpa di cui in fondo parlava Agostino, e si rifà ad Agostino nel definire cos'è questo stato di colpa, dice è una morte dell'anima, quindi in fondo potremmo dire la perdita della grazia santificante, però il concilio di Orange si rifà ad Agostino e lo definisce una morte dell'anima, quindi non identifica peccato originale e concupiscenza, proprio rifacendosi al vero Agostino, all'Agostino inteso bene. Ecco, con questo arriviamo a... saltiamo un po' di secoli, perché sennò è troppo lungo tutto. Sì, domanda, se fosse possibile. Ma Agostino come si poneva di fronte al fatto, non so, che perlomeno in Israele c'erano i profeti, c'era il santo re Davide, la cui discende, e queste persone erano anche loro nate nel peccato originale e non avevano ancora, diciamo, la grazia non essendo arrivato Cristo, e facevano anch'essi parte della massa dannata, mi sembra strano. No, mi sembra che lì la dottrina comune era che loro la salvezza per loro era nell'appartenere al popolo eletto, nell'attesa del Redentore, nella fede nel Messia che doveva venire, esatto. Non gli davano, come tutti gli altri giusti dell'Antico Testamento, diciamo, si salvavano, no? Penso che voi forse potete confermare anche altri, però ecco, questo era. Grazie. Però dopo la venuta di Cristo, istituendo Cristo la Chiesa con i suoi sacramenti, a quel punto la grazia sacramentale ordinaria per tutti. Esatto, esatto. Teniamo presente che effettivamente Agostino vive in un periodo in cui il cristianesimo ormai era diffuso più o meno in tutto l'orbe conosciuto, e quindi per lui, come per altri un po' di quel periodo, quando loro dicevano, cioè loro interpretavano la frase di Cipriano extra ecclesia nulla salus in un senso molto forte, ma perché? Perché vedevano come queste due alternative: o tu sei cristiano perché la Chiesa c'è dappertutto, o se non lo sei è perché non vuoi esserlo, perché avresti la possibilità di esserlo, e se quindi scegli di no, sei tu che rifiuti la salvezza che ti è proposta. Noi oggi, nel contesto in cui viviamo, ma anche poi già anche da partire dal 1500, quando scoprono l'America, gente che non aveva mai conosciuto Cristo, si comincia a riflettere di più su questo fatto, e quindi a non avere un'interpretazione così troppo limitante del fatto che la salvezza è solo nella Chiesa e grazie ai sacramenti, perché ci si rende conto che ci sono uomini che non sono mai stati raggiunti dal messaggio cristiano, quindi non possono neanche scegliere, no? E, bene, ecco, San Tommaso mi sembra che sia, cioè, senz'altro un autore importante come un po' su tutti gli aspetti teologici e dottrinali, e anche per noi può essere... Ah, scusate, no, prima di San Tommaso volevo solo rapidamente citare i tre canoni del Concilio di Cartagine del 418, che è il concilio che avviene quando Agostino è in piena disputa con i Pelagiani, e che diciamo verrà anche molto ripreso sia nel Concilio di Orange un secolo più tardi, sia poi nel Concilio di Trento. Allora, dice, si trovano sul Dentinger i numeri 222 e 224, sono tre canoni. Nel primo si dice che chiunque dica che Adamo, il primo uomo, sarebbe stato mortale, in modo che sia che peccasse, sia che non peccasse, sarebbe morto nel corpo, sia anatema. Sarebbe morto nel corpo, cioè che sarebbe morto non a causa del peccato, ma per una necessità della natura, anatema sì. Questo è chiaramente contro i Pelagiani, che invece vedevano come la morte come una necessità di natura, non legata invece al peccato di Adamo. E poi il secondo canone dice: i templari ai vescovi di questo sinodo è piaciuto anche che chiunque dica che i bambini appena nati siano da battezzare, o che loro non traggono il peccato originale da Adamo, in modo che la forma battesimale in remissione in peccatorum, battesimo in remissione in peccatorum, per loro non sia vera, ma sia falsa, anatema sì. Se anche sono appena nati, non hanno peccati personali, in realtà sono battezzati in remissione del peccatorum, quindi c'è un peccato da rimettere, che è evidentemente il peccato originale. Perché, spiega anche il motivo, non si può comprendere altrimenti ciò che dice l'Apostolo, e cita il famoso passo della lettera ai Romani. Vediamo se vi ricordate quale passo può essere. Romani 5, versetto 12. 5:12, che è quello: per un solo, per unum homine in peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines per transit, in quo omnes peccaverunt. Quell'in quo, che come lo leggeva Agostino, riferito ad Adamo, nel quale tutti hanno peccato, e che invece oggi si traduce eo quod, per il fatto che tutti hanno peccato. È entrata la morte con il peccato in tutti, perché tutti hanno peccato. Qui con l'inquo è molto più, diciamo, più esplicito che in qualche modo tutti siamo in Adamo. Bene. Ecco. Poi il terzo canone dice... vabbè, diciamo, questo è un terzo canone più una questione... I Pelagiani sostenevano che... i bambini che morivano senza battesimo non erano condannati, che neppure andavano nel regno dei cieli, dicevano, ma che avevano comunque la vita eterna. Facevano una strana distinzione tra regno dei cieli e vita eterna, come se ci fosse un luogo un po' intermedio per loro. No, ancora non si parlava di limbo. Il limbo un pochino riprenderà questo, però in realtà il limbo comunque sarebbe stato un luogo comunque senza la visione beatifica, quindi senza la visione di Dio, però anche con una certa felicità naturale, diciamo. Comunque loro ancora non parlavano di limbo. Ecco, il Concilio nega questo, nega che ci sia qualche luogo medio tra il Regno dei Cieli, dove, che si identifica il Regno dei Cieli con la vita eterna, non si possono dividere, distinguere, e invece l'inferno. Qui enim destra caret, sinistra implocur dubio, partem in cura, cioè fa riferimento, chi non sta alla destra del Signore senza dubbio starà alla sinistra, non c'è una via di mezzo. Insomma, ecco, questi sono i tre canoni del Concilio di Cartagine che fondamentalmente dava ragione ad Agostino contro i pelagiani. C'è qualche domanda su questo? Insomma, passiamo intanto a Tommaso. Tommaso ci consente di vedere in un modo anche abbastanza sistematico diversi punti che possono essere un po' una sorta di un po' punto di arrivo. Poi dopo di lui vedremo i canoni del Concilio di Trento, e, però come sempre San Tommaso è anche molto limpido e molto chiaro e ci può... Io seguo in questo più o meno passo passo la trattazione che c'è su questo libro di Olmi e che voi avete in uno dei file che vi ho passato, dove c'è Agostino, Tommaso e poi altri due autori in un unico file. Ci sono quattro spezzoni fotocopiati, uno di quelli è Tommaso. Innanzitutto, ecco, San Tommaso si rifà sicuramente molto ad Agostino e molto a tutta la tradizione precedente, e dice che chiaramente che questo, il peccato originale, è un argomento non deducibile razionalmente, alla cui conoscenza si perviene attraverso la rivelazione, pur mancando anche argomenti razionali che possono convalidare, diciamo, il dato rivelato, lo possono suffragare. Anche lui, come già Agostino e come già abbiamo visto anche altri dei padri, guarda al peccato originale partendo da Cristo, cioè partendo dal fatto che se Cristo è il nuovo Adamo, se Cristo porta quindi la salvezza per tutti, allora deve essere che per tutti il primo Adamo ha fatto entrare in ciascuno il peccato, è causa del peccato in ciascuno. E quindi si guarda ad Adamo alla luce di Cristo e non viceversa. Allora, andiamo subito. San Tommaso definisce il peccato originale, lo definisce per esempio nella prima secunde, questione 82, articolo 1. Dice quattro parole: carenza della giustizia originale. Carenza della giustizia originale. Una formula che riprende direttamente da Sant'Anselmo. E vedete, poi questo libro, l'autore qui, ecco, l'autore di questo articolo è Alberto Strumia, che forse un po' conoscete, avete sentito dire, perché collabora con Don Giuseppe nel DISV. È professore, adesso è in pensione, però è andato in pensione quest'anno, ha fatto l'ultimo anno lì. È una persona molto... Ecco, lui qui tende un pochino, dice, a dire di Agostino che... Vabbè, comunque è vero, che accentua il ruolo della concupiscenza nel definire il peccato originale, però appunto Agostino pure non dice che il peccato originale è la concupiscenza. E Quindi carenza della giustizia originale. Il problema, ecco, poi Strumia esamina tutti questi termini. In primo luogo è interessante notare che è una carenza. Qualcosa di prezioso è venuto meno nel rapporto dell'uomo con il creatore. Il peccato originale, quindi, sia in Adamo sia poi in noi, si connota anzitutto come mancanza di un bene originario, che è la giustizia originaria. Mancanza, privazione. Ecco, ancora però, qui non si spiega in che senso è anche una colpa. Se diciamo solo carenza, è una mancanza, però non diciamo qual è né la sua causa né qual è l'elemento di colpa che c'è nel peccato originale. Allora, l'aspetto di colpa si può trovare esaminando il secondo termine, giustizia. Perché? Perché il peccato originale è una questione di giustizia che è venuta a mancare. E la giustizia riguarda, per definizione, il rapporto di un soggetto con un altro, di un soggetto razionale e responsabile con un altro. Cioè riguarda il rapporto, in primo luogo, tra l'uomo e Dio. Allora, in questo rapporto tra l'uomo e Dio viene a mancare la giustizia. Poi, secondariamente, viene a mancare anche nel rapporto tra l'uomo e gli altri esseri umani. In primo luogo viene a mancare tra l'uomo e Dio. E chi è responsabile di questa mancanza? Senz'altro, in modo immediato, diretto, personale, è responsabile il primo uomo. Poi però vedremo come Tommaso collega il primo uomo a tutti gli altri. E quindi la responsabilità personalmente è di Adamo, però poi ecco la colpa diventa anche di tutti gli altri. Lo diremo adesso tra poco. Lo diciamo subito perché originalis, carentia justitiae originalis, mancanza della giustizia originale. È originale questa giustizia in quanto si trattava di quello stato buono, di giustizia, del rapporto dell'uomo con Dio, che originariamente era stato stabilito dal Creatore, in cui l'uomo era stato posto già dal Creatore. E a causa del peccato di Adamo è rimasta poi corrotta la natura umana, e adesso entriamo in questo aspetto di cosa significa che viene corrotta la natura umana. Tommaso dice questo: gli uomini, poi una cosa che troviamo anche detta nel catechismo della Chiesa Cattolica, gli uomini sono come un solo uomo in Adamo. Perché? Lui dice così, dice: tutti gli uomini che nascono da Adamo possono considerarsi come un solo uomo in quanto convengono nella natura umana che ricevono dal progenitore. Cioè, siamo come un solo uomo perché abbiamo tutti la stessa, l'identica natura umana, e tutti l'abbiamo ricevuta dal primo principio di questa natura umana, che è Adamo. Lui fa un paragone tra un corpo che possiede tante membra e gli uomini che condividono la natura. Dice: così come in una persona ci sono molte membra, così nell'unica natura umana ci sono molte persone. Per cui, in forza della partecipazione alla specie, molti uomini sono da intendersi quasi come un solo uomo, come dice Porfirio. Per la partecipazione alla stessa specie umana, gli uomini sono da intendersi quasi come un solo uomo. E allora, questo permette a Tommaso di dire come mai la giustizia originale persa da Adamo è persa poi anche per tutti gli altri. Dice: il venir meno della giustizia originale è un peccato di natura. Lui usa questa espressione, peccato di natura, cosa che adesso dovrei riguardare, ma comunque il catechismo non parla più di peccato di natura, parla di uno stato, di una condizione, ma non usa l'espressione peccato di natura. Comunque controllerò. Tommaso usa questa espressione: il venir meno della giustizia originale è un peccato di natura, cioè di tutta la natura umana, in quanto ad essa, cioè alla natura, deriva dal disordine della volontà del primo principio della natura umana, cioè del progenitore. Cioè dice, questo peccato di natura, che è la mancanza della giustizia originale, entra in tutta la natura umana a causa del disordine della volontà di Adamo, che era il primo principio della natura umana. E così, dice il peccato originale, e così è volontario come un abito relativo alla natura, cioè è volontario come può essere volontario un abito di natura, che è stato volontario nel primo principio di quella natura, non in noi. Noi ce lo siamo ritrovati perché partecipiamo della stessa natura di Adamo. E passa in tutti quelli che da esso, dal primo principio, cioè da Adamo, ricevono la natura umana, come fossero in certo modo sue membra. In questo senso viene detto peccato originale, perché giunge fino ai posteri dal progenitore per il suo essere origine. Quindi qui dà anche un'altra significato di originale. Prima abbiamo detto che era originale perché era la giustizia originale era quella in cui era stato costituito l'uomo da Dio. Il peccato originale qui, Tommaso dice che è originale perché ci viene dalla nostra origine, cioè dal progenitore, che è origine della natura comune di tutti noi. Qual è il meccanismo per Tommaso attraverso cui si propaga il peccato originale? È lo stesso che per Agostino, la generazione. Però qui, ecco, in Tommaso, già da prima di lui, è scomparso il problema di dire se l'anima è infusa direttamente da Dio, come Tommaso afferma chiarissimamente, allora in che modo si corrompe? No, Tommaso non... siccome noi abbiamo tutti la stessa natura e la ereditiamo e ci viene trasmessa nel processo della generazione, questa natura è corrotta. Forse una spiegazione tendenzialmente la dà, almeno Strumia la riporta qui, io non so bene lui da dove l'abbia. Comunque, lui dice: per Tommaso la generazione è il modo in cui la materia del corpo, indebolita dal peccato originale nella sua capacità di dipendere perfettamente dall'anima razionale, il corpo è come se si sottrae, indebolito nella sua capacità di essere docile all'anima razionale. La materia del corpo viene veicolata da un individuo all'altro nella generazione e viene veicolata e indebolita nella sua capacità di essere soggetta all'anima, e quindi unendosi poi all'anima spirituale creata direttamente da Dio senza peccato, la contagia con il peccato originale all'atto della sua unione con il corpo. Ecco, questo, vabbè, mi fido del fatto che se Strumia dice questo effettivamente lo ricava da quello che dice Tommaso. Qui non ho trovato delle citazioni dirette di questo. Comunque il problema del negazionismo è che sembra un po' un senso che Dio crei un'anima già contaminata dal peccato originale, quindi non si vuole far entrare in questo processo. Esatto. A me sembra comunque, adesso poi un po' di riflessione più sistematica la faremo andando avanti, adesso abbiamo più le tappe, che siccome quello che propriamente c'è nell'anima è poi la mancanza della grazia santificante, cioè, e questo effettivamente è più una carenza piuttosto che un suo essere macchiata. Possiamo dire forse che è indebolita in alcune sue facoltà, però non è propriamente in sé. Comunque ci dovremmo un po' riflettere. Bene, poi per ulteriore chiarimento, una sottolineatura importante è che quando Tommaso dice che è un peccato di natura, un peccato originale, e perché noi abbiamo la stessa natura di Adamo, siamo un po' come membra del suo corpo, di Adamo, il parallelo è chiarissimo con la cristologia, cioè con l'idea di Cristo che è capo del corpo, che è la Chiesa e anche di tutta l'umanità. Quindi Cristo, cioè dietro a questa visione della partecipazione all'unica natura umana come essere parte dello stesso corpo, c'è anche l'immagine di Cristo che è il capo del corpo, così. Quindi, come Adamo era il capo del corpo, ecco, Cristo sarà il nuovo capo. Insomma, anche Tommaso, come anche già Agostino, distingue chiaramente il peccato attuale, cioè quello che io posso commettere oggi, dal peccato originale. Il peccato attuale è un peccato della persona, in quanto viene commesso per volontà della persona, del peccatore. Tutti i peccati nostri personali sono così. Il peccato originale, invece, dice, è un peccato di natura, che è stato commesso per volontà del primo principio della natura comune, Adamo. E anche questo volontario, ma non in noi, in Adamo, che però è il principio della natura che noi abbiamo ricevuto tutti quanti da lui. E qual è stata la causa e un po' il contenuto del peccato originale? La causa è duplice, dice Tommaso: da una parte il demonio tentatore e dall'altra e soprattutto la volontà umana. Lui chiarisce chiaramente che il diavolo non può obbligare per necessità a commettere un peccato. E se all'uomo la ragione venisse totalmente legata, qualunque cosa facesse non gli potrebbe essere imputata come peccato. Quindi il demonio non è che ha forzato l'uomo a peccare. E il primo peccato dell'uomo, dice, è stato causato, dice, quindi dal suo libero arbitrio. Che tipo di peccato è stato? Dice così Tommaso, lo dice nella seconda secunde, questione 163, articolo primo, dice: il primo peccato dell'uomo è consistito nel fatto che ha presunto di raggiungere da solo un bene spirituale che è al di sopra della sua portata, e questo è proprio della superbia, per cui risulta chiaro che il primo peccato fu di superbia. Cos'è che ha voluto fare l'uomo? Ha voluto raggiungere la somiglianza con Dio con le sue sole forze naturali. Sarete simili a Dio, sarete come Dio. Due minuti. Tra gli effetti del peccato originale, che Tommaso elenca, c'è evidentemente come primo effetto la morte, e Tommaso, come tutti, anche quelli che abbiamo visto finora, la intende non solo in un senso morale, perché appunto appunto. Invece oggi, tra un po' le idee dibattute anche in ambito teologico, cioè se la morte entrata nel mondo è più quella fatto della perdita del legame con Dio, che è una vera morte spirituale, oppure se anche proprio la morte fisica è una conseguenza entrata nel mondo con il peccato. Tommaso dice senz'altro di sì. La morte va intesa anche in senso fisico. E lui poi chiarisce, è interessante come chiarisce, che la morte è un fatto naturale per quanto riguarda la condizione della materia. Cioè, per il fatto di avere un corpo materiale, in un certo senso la morte è naturale. Però è anche una pena, perché è quindi qualcosa che non doveva essere così nel disegno di Dio. Perché? Perché dice, essendo l'anima, cioè Dio come aveva fatto l'uomo? L'ha fatto dotato di anima e corpo, ed essendo l'anima razionale superiore come natura a quella del corpo, Dio l'aveva congiunta al corpo in una condizione tale che non vi potesse essere nel corpo qualcosa di contrastante con l'anima. Allora, il fatto che a un certo punto invece l'uomo possa morire è qualcosa che va contro il fatto che l'anima di per sé è fatta per vivificare il corpo e per poter continuare a vivificarlo. Quindi ciò che la depotenzia e la impedisce nel suo atto di dare vita al corpo, e quindi il fatto che il corpo può morire, diciamo, noi possiamo morire, quindi l'anima può smettere di dare vita al corpo, è contro la sua natura ed è conseguenza del peccato originale. È una... Bene, sarebbe interessante, ma lo faremo magari la prossima volta, una così carrellata di qual era la visione dell'uomo di Tommaso, dell'uomo nello stato originario. Molto bella, anche varie idee interessanti su come era stato pensato e come viveva l'uomo prima del peccato originale. Faremo la prossima volta.